Grilli. I grilli sono insetti piccoli, ma hanno una forza che saltano in aria quando qualcuno si avvicina. Saltano e poi si ributtano in terra e cercano qualche buco per nascondersi. Ma molti hanno la tana vicina e ci stanno di guardia. Quelli che non sono a tempo ad entrare nella tana entrano tra i cespugli d'erba, si nascondono lì e non si chiappano. I grilli ci sono di tante razze. Ci sono neri, grossetti, che hanno sul dorso due piccolissime ali nere, hanno sei zampette, e in vetta alle zampette pare che ci sia un pettinino. Quei pettinini sono per raschiare la terra, per fare la tana. Ci sono marroni, sottili e magri, con le ali rossicce e lunghe. Quelli non stanno sottoterra come i neri, stanno sopra l'erba e fanno salti alti. Stanno a branchi e quando scappano pare che ci sia la processione. D'estate i grilli la notte trillano sopra l'erba guazzosa. Dal libro della natura di Saint-Gersolais.